La storia e la memoria di Dino Pesole. È il 3 giugno del 1944, 70 anni fa. Bruno Buozzi, uno dei principali esponenti del sindacalismo riformista italiano, viene prelevato dalla polizia tedesca dal carcere Lager di Via Tasso a Roma insieme ad altri 12 compagni. Viene caricato su un camion che si avvia sulla Via Cassia con le truppe naziste in ritirata. In località La Storta l'automezzo si ferma e i prigionieri vengono fatti scendere, rinchiuso in un fienile per la notte. All'indomani il gruppo viene sospinto in una valletta e Bruno Buozzi viene trucidato con tutti i suoi compagni. Si conclude così, tragicamente, la vita di un personaggio chiave, un personaggio di primissimo piano, il cui nome è iscritto a caratteri cubitali nella storia del sindacalismo italiano. A lui vanno ascritte alcune importanti conquiste sindacali. Ne ricordiamo alcune: la giornata di lavoro di 8 ore, raggiunta con l'accordo del 20 febbraio del 1919, tra la FIOM e l'Associazione degli Industriali Meccanici e Siderurgici, ed estesa poi in seguito ad altre categorie, poi i minimi salariali ottenuti nel settembre del 1919. Un libro appena pubblicato da EDS, scritto da Gabriele Mammarella, dal titolo Bruno Buozzi 1881-1944, una storia operaia di lotte, conquiste e sacrifici, con prefazione di Susanna Camusso, ne ripercorre l'intero percorso umano e politico. Ne parliamo questa sera proprio con l'autore, Gabriele Mammarella. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Nell'ottobre del 1918, nei giorni in cui stava per concludersi la Prima Guerra Mondiale, si tenne a Roma il 5° congresso nazionale della FIOM. Bruno Buozzi, che ne era il segretario, svolse un'ampia relazione sull'attività del sindacato dei metallurgici nei precedenti 2 anni. Un concetto ricorreva nel suo discorso: non esiste democrazia laddove non c'è volontà comune di procedere organizzati e solidali al raggiungimento di un fine. Democrazia, affermò, significa disciplina. Buozzi era figlio di operai. Il padre, panettiere, era morto quando Bruno aveva 10 anni, lasciandolo orfano insieme ad altri 4 fratelli. Aveva dovuto interrompere gli studi dopo la terza elementare per cercarsi un lavoro. Solo con grandi sacrifici era riuscito a conseguire un titolo di formazione professionale tecnica. Operaio alla Marelli e subito dopo alla Bianchi, si era iscritto nel 1905, a 24 anni, alla FIOM e aveva preso la tessera del Partito Socialista, aderendo alla corrente riformista. Nello stesso periodo aveva cominciato ad insegnare in una scuola di arti e mestieri della società umanitaria. La FIOM, quando Buozzi fu chiamato a dirigerla, si dibatteva tra profonde difficoltà che avevano allontanato dalle sue file non pochi lavoratori. Il giovane segretario svolge un'attività impressionante per ristabilire i rapporti con le sezioni, sostenere le ragioni dei lavoratori in ben 51 vertenze, dare suggerimenti e consigli. Noi non crediamo molto, scrisse nell'agosto del 1910 su Il Metallurgico, all'azione deleteria dei partiti politici, poiché proprio nelle località dove questi hanno combattuto e tenacemente combattuto e sono sviluppati, più forte è l'azione sindacale, più importanti le conquiste che va facendo il proletariato e più potenti le organizzazioni. La sua convinzione era che le rivendicazioni dei sindacati dovessero, alla fine, ricomporsi in un progetto di lungo respiro, di cui solo i partiti, con una visione più ampia della vita politica, potevano farsi portatori. Il sindacato di mestiere, avrebbe dichiarato più tardi, nel 1924, ha un'altra funzione da compiere nella società, ma non può bastare a tutto. Arrestato nel 1941 nella Francia invasa dai tedeschi e imprigionato alla Santé, dove incontrò Giuseppe Di Vittorio, fu trasferito con foglio di via obbligatorio in Italia, a Montefalco, tra Foligno e Assisi. Buozzi riuscì a stabilire rapporti anche con i cattolici, gettando le basi del Patto di Roma, che fu poi firmato nel giugno del 1944 e che egli non riuscì a sottoscrivere perché ucciso dai tedeschi in fuga. E allora, Gabriele Mammarella, intanto approfondiamo prima di tutto questo aspetto. Bruno Buozzi, personaggio centrale nella storia politica italiana, umili origini, com'è il suo percorso, come arriva a essere, a conquistare questa posizione centrale? A 13 anni Bozzi già era nell'officina, lavorava fino a 12-13 ore al giorno e poteva bastare a se stesso e anche contribuire al modesto bilancio familiare. Era un autodidatta, studiò rubando le ore al sonno, infatti non succedeva non di rado che si ritrovava addormentato sui banchi di lavoro. E queste sue umili origini un po' rappresentano quel fattore che lo lasciava in qualche modo, gli operai sentivano, grazie a queste umili origini, che apparteneva alla loro stessa categoria, quindi si sentivano non solo rappresentati da quel forte ragionatore che era Bozzi, ma anche appunto da un appartenente a quella classe proletaria che lui stesso, di cui lui stesso rappresentava i diritti. Ecco, in varie parti del libro si affronta il nodo del rapporto tra Mussolini e Bozzi. Vogliamo tratteggiarlo nelle sue linee principali? Certo. Mussolini e Bozzi sono appartenuti allo stesso partito, il socialista. Quando Mussolini si allontanò dal partito per fondare il movimento fascista, ovviamente conservò il ricordo di quell'uomo fascinoso comunque che era Bruno Bozzi, ovviamente stiamo parlando sul piano intellettuale. Mussolini forse credeva di avere delle affinità di vedute, ma non certo Bozzi con Mussolini. Uno dei primi gesti, diciamo, plateali che fece Mussolini verso Bozzi fu quello di recarsi durante l'occupazione delle fabbriche nell'albergo nel quale alloggiava il segretario della Federazione degli Operai Metallurgici. Bene, si recò di sulla sponte all'hotel in cui alloggiava Bozzi e questi si radeva, questo è un aneddoto che spesso mi piace ricordare, si radeva piacevolmente la barba allo specchio e Mussolini, nel quale si trovava sicuramente in una situazione di sudditanza psicologica, poneva le sue domande: ma voi socialisti siete veramente decisi a prendere il potere? E quando Bozzi, un po' distratto, gli rispose: certo, certamente. Mussolini disse: ok, allora noi fascisti siamo con voi. Quindi abbiamo questo dittatore assai lontano dalle pose maciste, come spesso viene ricordato. Dopodiché, quando invece riuscì a conquistare il potere, Mussolini provò ad inserire nella prima lista di governo Bruno Bozzi. Già, è vero. Bruno Bozzi non accettò, rifiutò anche questa volta. Ci furono anche altre avance, anche altri tipi di approcci, ma voglio ricordare che Bozzi fu tra la corrente politica che rappresentava il socialismo, cioè il riformista, uno dei pochi che non si piegò alle lusinghe del fascismo, tanto che nel 29, ormai esule in Francia, rifiutò per l'ennesima volta l'ennesima offerta di Mussolini, cioè quella di di essere messo a capo del Ministero delle Corporazioni. C'è un bellissimo documento storico che ricorda questo evento e viene ricordata come lettera a Villani, cioè una lettera di rifiuto in cui Bozzi spiega le sue ragioni e dirà: mi deciderò a tornare in patria solo quando in patria ci sarà finalmente la libertà di esprimersi e tornerò a mio rischio e pericolo. Parole profetiche. Ecco, affrontiamo adesso come ultimo argomento quello della leadership socialista riformista di Bozzi in sostituzione di Matteotti, che come sappiamo venne ucciso nel 1924. Sì. Bene, questa sostituzione si deve essenzialmente al fatto che Bozzi, rispetto agli altri dirigenti, rispetto agli altri uomini politici, era il rappresentante politico che meno era disponibile al compromesso col fascismo, anzi, tutt'altro, era deciso a contrastare l'ascesa di questa forza così violenta e liberticida. Ed è Turati, uno dei fondatori del socialismo in Italia, a chiedere a Buozzi di assumere un ruolo principale nel partito dei socialisti unitari, ovvero sia dei socialisti riformisti. Tanto che durante la scissione dell'Aventino i due rappresentanti del PSUM, scelti nel seno del Comitato dei 16, il Comitato delle Opposizioni, per il Partito Socialista Unitario appunto furono proprio Filippo Turati, il fondatore del Partito Socialista in Italia, e Bruno Buozzi. Grazie molto a Gabriele Mammarella per queste precisazioni, e quindi lo ricordiamo, autore di questo interessante libro su Bruno Buozzi, 1881-1944, Una storia operaia di lotte, conquiste e sacrifici. Grazie ancora e buona serata. Grazie a voi, buonasera.